Un buongiorno a Margherita Caprilli e a Flavia Tommasini, rispettivamente regista e sceneggiatrice di Le Consegne Etiche. Buongiorno e benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao. Buongiorno. Allora, innanzitutto partiamo un po' dal principio. Che cos'è il progetto Consegne Etiche? Allora, rispondo io a questa prima domanda. Consegne Etiche è un progetto che nasce un po' di tempo fa, nel senso che all'interno di un progetto di ragionamento attorno alla città che stava vivendo l'emergenza del lockdown, quindi parliamo del periodo di aprile, marzo-aprile del 2020, la Fondazione per l'Innovazione Urbana ha creato un ciclo di appuntamenti e poi un progetto vero e proprio che era appunto l'osservatorio sull'emergenza pandemia. E all'interno di questo progetto si era... Uno dei temi che era emerso fortemente, no, durante il lockdown era il tema delle consegne a domicilio, in particolar modo durante, insomma, la crisi pandemica, tutti chiusi nelle case, abbiamo visto come un lavoratore come quello del rider era stato considerato un lavoratore indispensabile, di un servizio indispensabile, quello delle consegne a domicilio, però di contro c'era una grossa problematicità che per tuttora persiste legato al tema dei diritti di questi tre lavoratori, perché se al contempo stavano diventando lavoratori essenziali, dall'altra parte le loro condizioni di lavoro legate anche al rapporto con le piattaforme del delivery era sempre più sfruttato e senza tutele. Quindi da questo ragionamento si è partiti insomma, a mettere sul tavolo alcuni attori che erano interessati, no? Perché se da una parte c'erano i riders sfruttati senza diritti, che comunque erano costretti a lavorare durante il periodo pandemico, dall'altra parte in città soprattutto c'erano tantissime realtà commerciali che si stavano auto-organizzando per poter fare le consegne a domicilio, cercando di bypassare questo sistema un po' delle piattaforme. E da lì si è cominciato a ragionare su come si poteva arrivare a studiare un servizio che garantisse da entrambe le parti, quindi sia dal punto di vista della tutela dei lavoratori che della capacità, insomma, dei commercianti di poter arrivare al servizio di distribuzione a domicilio, come legare insieme le due cose. E insomma, quello fu il primo momento in cui si cominciò a ragionare sulle consegne etiche, che poi si è sviluppato grazie all'interessamento di due cooperative, una è Dinamo e l'altra è Idei Movimento, che assieme alla Fondazione per l'Innovazione Urbana hanno disegnato questo servizio, che poi di fatto è diventato operativo e attivo sempre in una fase sperimentale a settembre del 2020. Infatti voi in questo documentario raccontate appunto il progetto Consegne Etiche, ma come e dove sarà possibile visionare il documentario? A questa domanda invece rispondo io. Allora, il documentario sarà disponibile per una visione di 2 settimane in modalità totalmente gratuita, con accesso totalmente gratuito a tutte e tutti da mercoledì 10 marzo. La proiezione dovrebbe iniziare alle 21:30 e sarà sulla piattaforma di OpenDTB, che siamo state chiaramente molto contente di coinvolgere questo progetto. La prima proiezione sarà appunto preceduta da un evento streaming con inizio sempre mercoledì 10 alle 20:30, andrà in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Innovazione Urbana. Praticamente sarà un dialogo tra appunto le esperienze emergenti in Italia, quindi appunto avremo un palcoscenico comunque di ospiti di portata nazionale. Ci sarà un'introduzione da parte del presidente della Fondazione Raffaele Laudani, successivamente ci sarà questo dialogo appunto tra il sindaco Giorgio Gori del comune di Bergamo con Teo Lepore, assessore all'immaginazione civica di Bologna, e poi saranno presenti tanti ospiti, tra cui chiaramente anche i protagonisti un po' del nostro video. Come diceva anche Flavia, ci saranno Simona Larghetti di Dinamo, Alessandro Blasi del Movimento, che sono appunto le due le due cooperative, e poi ci sarà anche Tommaso Falchi di Bologna Riders Union e Giorgio Pirazzoli come, diciamo, rappresentante della parte inerente ai commercianti del mercato ritrovato. All'interno di questo documentario raccontate appunto la voce dei protagonisti che hai appena citato, che saranno appunto presenti anche all'incontro, ma si cerca anche di dare uno sguardo più ampio, offrendo un'altra tipologia di visione. Si fa anche ad esempio una riflessione per i consumatori. Il lavoro nasce un po' col pensiero di raccontare le consegne etiche. Non a caso il lavoro è anche prodotto dalla Fondazione per l'Innovazione Urbana. Consegne etiche ha avuto anche un grosso coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale e anche dalle istituzioni biblioteche, che ci ha permesso di fare hanno permesso di fare una grande sperimentazione legata alle consegne a domicilio, ad esempio sul prestito bibliotecario. E lo dico perché, al di là però, quando ci siamo messe con Margherita a lavorare, no, a un prodotto che dovesse raccontare questo progetto, ci siamo trovati di fronte a una grande vastità di tematiche che erano un po' complesse da raccontare con un format che non riuscisse a sviscerare tutti gli argomenti, perché, come giustamente dicevi tu, Rachele, raccontare questa esperienza è stato anche un po' raccontare i protagonisti di questa esperienza, quindi i rider. E quando parliamo dei rider, ovviamente abbiamo puntato molto sul tema delle tutele e anche delle lotte che i rider hanno fatto in questa città, soprattutto da cui anche sono partite, no? E se penso al manifesto per i lavoratori digitali, unico in Italia, e a tante altre cose che sono successe. E quindi i protagonisti sono i rider, poi appunto i commercianti, soprattutto i piccoli commercianti, i commercianti etici che fanno un grosso lavoro sulla filiera e sul raccordo di comunità, no? Penso al mercato ritrovato, penso a un'esperienza come quella di Porta Pazienza, oppure come il mercato, no? Il mercato Albani in questo caso. Ci sono altri mercati che hanno aderito poi a questa iniziativa, no? E quindi quel tessuto di commercianti, se vuoi, che meno si trovano affini a finire dentro una piattaforma dove c'è di tutto un po', no? Ma che tendono e hanno la necessità di valorizzare il rapporto con il cliente. E poi l'altro tema che è emerso molto forte è sia in questo, anche perché le due cooperative che stanno poi realizzando il servizio hanno anche quel senso, no? di quel senso di approfondimento, no? È ovvio che con Dinamo si è molto ragionato di cosa significa consegne anche dal punto di vista della mobilità e quindi dei mezzi a motore piuttosto che i mezzi a pedali all'interno di un centro storico che ha fragilità, che ha problemi di inquinamento, eccetera. Idea in Movimento si è occupata durante il lockdown di fare consegne in particolar modo verso il Santa Fissa di Mora, piuttosto che consegne di pacchi alimentari. E quindi c'è anche una grossa riflessione sul tema della pandemia e dell'erosione, no, de nuove figure che emergono legate alle povertà. E quindi, ecco, questo documentario alla fine, per raccontare le consegne etiche, ha raccontato un sacco di altre cose. Esatto. E siamo d'accordo che effettivamente avevamo di fronte a noi un documentario che, se vuoi, non è neanche tanto esaustivo rispetto a tutti i grandi temi che abbiamo toccato.